Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Quindicesima puntata. Quando riaprì gli occhi ero nell'ufficio del professor Rius. Com'era e com'è bello e coraggioso Rius. In mezzo ad amici e a facce note, in mezzo a gente dell'università e non a soldati. E mi parve così meraviglioso che mi misi a piangere. Incapace di formulare un resoconto coerente della mia storia, malgrado le richieste di Rius, che sembrava in egual misura scandalizzato e riconoscente per ciò che avevo fatto. E questo è tutto, amici miei. La leggenda si sparse nel vento di Città del Messico e nel vento del 68 si fuse con i morti e con i sopravvissuti, e ora tutti sanno che nell'anno bello e funesto in cui fu violata l'autonomia, una donna rimase chiusa dentro all'università e io ho continuato a vivere. Ma mancava qualcosa, mancava quel che avevo visto. E ho ascoltato tante volte la mia storia raccontata da altri, in cui quella donna, che era rimasta 13 giorni senza mangiare dentro una toilette, era una studentessa di medicina o una segretaria del rettorato e non un'uruguaiana senza documenti, senza lavoro e senza una casa dove trovare riposo. E a volte non era nemmeno una donna, ma un uomo, uno studente maoista o un professore con problemi gastrointestinali. E quando io ascoltavo quelle storie, quelle versioni della mia storia, in genere, soprattutto se non avevo bevuto, non dicevo nulla. E se ero ubriaca, minimizzavo. Non è questo l'importante, dicevo. Questo è solo folklore universitario. Questo è folklore di Città del Messico. E allora loro mi guardavano. Ma chi mi guardava? E dicevano: Auxilio, tu sei la madre della poesia messicana. E io dicevo, se avevo bevuto, gridavo: no, non sono la madre di nessuno, ma questo sì. Li conoscevo tutti i giovani poeti di Città del Messico, tutti, quelli nati qui e quelli arrivati dalla provincia, e anche quelli che avevano portato le onde da altri posti dell'America Latina, e li amavo tutti. Allora loro mi guardavano e rimanevano in silenzio. E io aspettavo un po' di tempo per cautela, facendo finta di nulla, e poi tornavo a guardarli e mi domandavo perché non dicevano niente. E pur cercando di tenere lo sguardo occupato altrove, sul traffico al di là dei vetri, sui movimenti pacati delle cameriere, sul fumo che usciva da qualche punto dietro al bancone, quello che davvero mi interessava era osservare loro, immersi in un silenzio senza fine. E pensavo che non era normale restare tanto tempo in silenzio. E in quel momento tornavano l'inquietudine e le congetture folli e il sonno e il freddo che strazia e poi addormenta le estremità. Ma io continuavo a muovermi, muovevo le gambe, le braccia, respiravo, mi ossigenavo il sangue. Io mi dicevo: se non voglio morire, non morirò. Così mi muovevo e al tempo stesso vedevo. A volo d'uccello, anche se lì non c'erano uccelli. Vedevo il mio corpo muoversi fra le gole e i terrapieni coperti di neve, sulle interminabili distese bianche come il dorso fossilizzato di Moby Dick. Ma continuavo a camminare. Camminavo e camminavo e di tanto in tanto mi fermavo e mi dicevo: svegliati, Auxilio. Una cosa così non si sopporta, eppure io sapevo che potevo sopportarla e battezzai la mia gamba destra con il nome di volontà e la mia gamba sinistra con il nome di necessità e sopportai. E un pomeriggio mi lasciai alle spalle quell'immenso territorio innevato e scorsi una valle. Mi sedetti per terra e guardai la valle. Era grande. Sembrava uno di quegli sfondi che si vedono in certi dipinti rinascimentali, solo più esagerato. L'aria era fredda, ma non tagliava la faccia. E io mi fermai nella parte alta della valle e mi sedetti per terra. Ero stanca. Volevo tirare il fiato. Non sapevo cosa sarebbe stato della mia vita. Forse, ipotizzai, qualcuno mi darà un lavoretto in facoltà. Tirai il fiato. L'aria era profumata. Scendeva la sera. Il sole cominciava a tramontare molto più in là, in altre valli singolari, forse più piccole dell'enorme valle che avevo incontrato. Il chiarore che fluttuava sulle cose, però, era sufficiente. Non appena avrò ripreso un po' le forze, comincerò a scendere, pensai, e prima che faccia buio sarò nella valle. Mi alzai. Mi tremavano le gambe. Tornai a sedermi. A qualche metro da me c'era una lingua di neve. Mi avvicinai e mi lavai la faccia. Tornai a sedermi. Un po' più giù c'era un albero. Su un ramo vidi un passero, poi una macchia verde attraverso l'aria vidi un quetzal. Vidi un passero e un quetzal. Tutti e due gli uccelli appollaiati sullo stesso ramo. Le mie labbra spaccate sussurrarono lo stesso ramo. Sentii la mia voce. Solo allora mi resi conto dell'enorme silenzio che gravava sulla valle. Mi alzai e mi avvicinai all'albero, piano perché non volevo spaventare gli uccelli. La vista da lì era migliore, ma dovevo camminare con cautela, guardando per terra perché c'erano sassi sparsi e il rischio di scivolare e cadere era grande. Quando arrivai accanto all'albero, gli uccelli erano volati via. Allora vidi che all'altro capo della valle, a ovest, si apriva un abisso senza fondo. Sto diventando pazza, pensai. Erano queste la follia e la paura di Arthur Gordon Pym? Sto ridiventando savia a velocità vertiginosa? Le parole mi rimbombavano dentro la testa come se una gigantessa le stesse gridando dentro di me, ma fuori il silenzio era assoluto. A ovest tramontava il sole e sotto, nella valle, si allungavano le ombre, e quello che prima era verde, ora era verde scuro, e quello che prima era marrone, ora era grigio scuro o nero. Allora, nella parte più orientale della valle, vidi un'ombra d'altro genere, come quella che proiettano le nuvole quando si muovono in fretta sopra un grande prato, anche se quest'ombra non la proiettava nessuna nuvola. «Che roba è?» mi chiesi. Guardai il cielo, poi guardai l'albero e vidi che il quetzal e il passero si erano di nuovo posati sullo stesso ramo e si godevano immobili la quiete. Poi guardai l'abisso. Mi si strinse il cuore. Quell'abisso segnava la fine della valle. Io non ricordavo nessuna valle con un simile fenomeno geografico. Di fatto, in quel momento, più che in una valle, mi sembrò di stare su una meseta. Ma no, non era una meseta. La meseta, per sua natura, è priva di pareti naturali. Ma le valli, mi dissi, non sprofondano in abissi insondabili, anche se forse qualcuna sì. Poi guardai l'ombra che si allargava e avanzava dalla parte opposta, come se fosse uscita anche lei dalla zona innevata, però da un punto diverso dal mio. In lontananza, sopra la miriade di vulcani, si preparava in silenzio una tempesta elettrica. Capii allora che il quetzal e il passero sul ramo, un metro e mezzo sopra di me, erano gli unici uccelli vivi di tutta la valle. E capii che l'ombra che scivolava sul grande prato era una folla di giovani, un'infinita legione di giovani che si dirigeva da qualche parte. Li vidi. Ero troppo lontana per scorgerne i volti, ma li vidi. Non lo so se erano giovani in carne e ossa o fantasmi, ma li vidi. Probabilmente erano fantasmi, ma camminavano e non volavano come pare che facciano i fantasmi, così può darsi che non fossero fantasmi. Capii anche che pur camminando insieme non costituivano quella che abitualmente si chiama una massa. I loro destini non erano legati a un'idea comune, li univano solo la generosità e il coraggio. Ipotizzai, con i palmi delle mani sulle guance, che anche loro avessero vagato per le montagne innevate e che poi si fossero pian piano incontrati e avessero camminato assieme fino a formare l'esercito che ora avanzava sul prato. Loro da una parte e io dall'altra. Abolite le leggi della fisica, vidi le vette alpine come uno specchio a due lati. Da un lato dello specchio ero uscita io e dall'altro erano usciti loro. Camminavano verso l'abisso. Credo di averlo capito non appena li vidi. Ombra o massa di bambini camminavano inesorabilmente verso l'abisso. Dopodiché sentii un mormorio che l'aria fredda del tramonto nella valle levava in alto verso le pendici e i picchi e rimasi stupefatta. Stavano cantando. I bambini, i giovani, cantavano e si dirigevano verso l'abisso. Mi portai una mano alla bocca come se volessi soffocare un grido e allungai l'altra, le dita tremanti tese come se potessi toccarli. La mia mente cercò di ricordare un testo che parlava di bambini che andavano in guerra intonando canzoni, ma non ci riuscì. Avevo la mente sottosopra. Dopo la traversata nella neve mi ero trasformata in sola pelle. Forse ero sempre stata così. Non sono una donna molto intelligente. Allungai tutte e due le mani, come se chiedessi al cielo di poterli abbracciare, e gridai, ma il mio grido si perse sulle alture dove ancora mi trovavo e non raggiunse la valle. Magra, rugosa, gravemente ferita, con la mente sanguinante e gli occhi pieni di lacrime, cercai gli uccelli come se i poveretti avessero potuto aiutarmi in quell'ora in cui il mondo intero si spegneva. Il ramo era deserto. Supposi che gli uccelli fossero un simbolo e che in questa parte della storia tutto fosse semplice e facile. Supposi che gli uccelli fossero l'emblema dei ragazzi. Non so cos'altro supposi. E li sentii cantare. Li sento cantare ancora adesso, che non sono più nella valle. Piano piano. Appena un mormorio quasi impercettibile. I bambini più belli dell'America Latina. I bambini denutriti e quelli ben nutriti. Quelli che avevano avuto tutto e quelli che non avevano avuto niente. Che canto meraviglioso usciva dalle loro labbra. Che meraviglia anche loro. Che bellezza. Benché stessero marciando spalla a spalla verso la morte, li sentii cantare e diventai pazza. Li sentii cantare e non potei far niente per fermarli. Ero troppo lontana e non avevo la forza di scendere a valle, di mettermi in mezzo al prato e dir loro di fermarsi, perché stavano marciando verso una morte certa. L'unica cosa che potei fare fu alzarmi in piedi, tremante, e ascoltare fino all'ultimo sospiro il loro canto. Ascoltare sempre il loro canto, perché loro vennero inghiottiti dall'abisso. Ma il canto rimase nell'aria della valle, nella foschia della valle che al tramonto risaliva le pendici e le vette. Così i ragazzi fantasma attraversarono la valle e precipitarono nell'abisso. un passaggio breve. E nelle mie orecchie il loro canto fantasma, o l'eco del loro canto fantasma, che è come dire l'eco del nulla, continuò a marciare al loro stesso passo, che era il passo del coraggio e della generosità. Una canzone appena percettibile, un canto di guerra e di amore, perché quei bambini andavano senza dubbio in guerra, ma lo facevano ricordando i gesti teatrali e sovrani dell'amore. Ma che genere di amore potevano aver conosciuto? Pensai, quando la valle rimase vuota e solo il loro canto continuava a risuonarmi nelle orecchie. L'amore per i loro genitori, l'amore per i loro cani e i loro gatti, l'amore per i loro giocattoli, ma soprattutto l'amore che avevano l'uno per l'altro, il desiderio e il piacere. E anche se il canto che ascoltavo parlava della guerra, delle imprese eroiche di un'intera generazione di giovani latinoamericani sacrificati, io capii che al di là di tutto parlava del coraggio e degli specchi, del desiderio e del piacere. E quel canto è il nostro amuleto.